rientra, secondo me, in quella che è un'ulteriore militarizzazione delle forze di polizia, che fa il paio con quella che è la cosiddetta politica emergenzialistica intorno alla costruzione della paura. Questo ulteriore passo di militarizzazione avviene nonostante nel nostro paese ormai i dati reali ci dicono che i reati diminuiscono, però di fatto le risposte che i governi danno è quello di, da un lato, la militarizzazione ulteriore delle forze dell'ordine e dall'altro lato la costruzione di ridefinizione di nemici pubblici, e i nemici pubblici oggi sono coloro che vivono ai margini della società, sono i poveri, sono i migranti, e tutto questo credo che sia anche il contesto politico e sociale che va a inserirsi quest'ulteriore strumento in dotazione alle forze dell'ordine. È uno strumento di tortura, questo non lo dico io, ma è già stato affermato più di 10 anni fa dalla stessa ONU, che ha ritenuto quest'arma un vero strumento di tortura, e di fatto è confermato dai numeri che Amnesty ha portato all'attenzione. Dal 2001, l'anno che è entrato in vigore il Taser negli Stati Uniti d'America, si parla di più di 800 vittime, e la maggior parte di queste sono persone che sono state fermate per controllo senza possesso di nessuna arma ad offendere, e quindi dimostra di fatto la pericolosità di questo strumento. In più, credo che, come dicevo prima, è un ulteriore strumento di militarizzazione delle forze dell'ordine, perché in questo paese, con molto silenzio, anzi con la costruzione di grosse campagne mediatiche intorno alla figura della ridefinizione della figura del nemico, e soprattutto in quella che è la criminalizzazione delle lotte sociali, in questi anni, soprattutto dal famigerato vertice del G8 a Genova nel 2001, abbiamo visto un'escalation di nuovi strumenti in dotazione alle forze dell'ordine, dal manganello Tolfa ai gas CS, all'introduzione e alla fornitura degli spray urticanti, ai mezzi corazzati nei servizi di ordine pubblico, all'introduzione degli idranti, oppure quello che vediamo quotidianamente nelle nostre città, i militari in giro con pesanti armi automatiche. Insomma, io credo che il rischio concreto che rischiamo in questo paese è di finire come negli Stati Uniti, dove le forze di polizia reprimono le lotte sociali con gli stessi atteggiamenti e armamenti che avrebbero utilizzato sui fronti di guerra. E di questo non è da escludere, visto che poi ormai l'arruolamento nelle forze di polizia in Italia avviene ormai da più di un decennio in base non a dei concorsi, ma in base alla partecipazione a missioni militari all'estero. Sappiamo che le nostre missioni militari all'estero fanno ad esempio dell'uso delle armi pesanti e della tortura un uso quotidiano. Torno un attimo sull'aspetto della pericolosità che citavi prima. Dicevamo, Amnesty ha calcolato 800 decessi dal 2001 sì. E ad oggi, quello che non si dice, appunto, perché queste armi vengono vendute come armi sicure, ma qualora non uccidessero rischiano comunque di lasciare dei danni permanenti. Certo, ripeto, i numeri, l'inchiesta che ha presentato Amnesty è un'inchiesta inquietante, insomma, che può provocare effetti a lungo termine e gravi handicap, insomma, al di là del poter causare la morte, insomma. Quindi dobbiamo fare sempre più i conti con una polizia che reprime in un paese che poi è stato introdotta anche una legge sulla tortura, che è una legge farlocca, una legge che di fatto garantisce ulteriore impunità alle forze dell'ordine, insomma, e a coloro che invece dovrebbero garantire sicurezza, insomma. Bisognerebbe, ecco, invece pensare seriamente alla formazione della nostra polizia, e che, come dicevo prima, invece attualmente vede tra le file agenti che si sono formati soprattutto in contesti di guerra. È molto molto pericolosa, insomma, e questa deriva autoritaria che si sta vivendo nel nostro paese è di fatto rientra nell'attuale disegno neautoritario, in quel costante stato di eccezione permanente che purtroppo viviamo da decenni.